quel fazzolettino. Amor, dammi quel fazzolettino, vado alla fonte, lo vado a lavar. Amor, dammi quel fazzolettino, vado alla fonte, lo vado a lavar. Te lo lavo alla pietra di marmo, te lo lavo alla pietra di marmo, te lo lavo alla pietra di marmo, ogni macchietta è un bacino d'amor. Te lo lavo alla pietra di marmo, ogni macchietta è un bacino d'amor. Te lo stendo ad un ramo di rose, te lo stendo ad un ramo di rose, te lo stendo ad un ramo di rose, ogni sbattuta è un sospiro d'amor. Te lo stendo ad un ramo di rose, ogni sbattuta è un sospiro d'amor. Te lo stiro col ferro a vapore, te lo stiro col ferro a vapore, ogni pieghino è un bacino d'amor. Te lo stiro col ferro a vapore, ogni pieghino è un bacino d'amor. Te lo porto di sabato sera, porto di sabato sera, te lo porto di sabato sera, di nascosto di mamma e papà. Te lo porto di sabato sera, di nascosto di mamma e papà. C'è chi dice l'amor non è bello, c'è chi dice l'amor non è bello,